Due modi di ascoltare la voce di uno degli artisti più densi della letteratura italiana, Cesare Pavese. L'intimità struggente dei versi in «Verrà la morte a avere i tuoi occhi» e il dialogo con miti e domande antiche quanto mai contemporanee in «Dialoghi con Leucò». Tra emozioni profondi e riflessione senza tempo, iniziamo questo viaggio nelle parole di Pavese con Anna Bertucci. Cesare Pavese, introverso e tormentato, è uno dei protagonisti della letteratura novecentesca, in cui però si distingue per la profonda capacità introspettiva e per i temi catartici. Cesare Pavese nasce il 9 settembre del 1908 a Santo Stefano Belbo, nonostante la famiglia sia residente a Torino. Le colline di Santo Stefano rimarranno nostalgia nel cuore del poeta, che ne farà uno dei suoi temi prediletti. Durante la sua crescita è piuttosto timido, motivo per cui si isola nei libri e nei paesaggi sereni. Una conoscenza fondamentale nella vita di Cesare è quella del suo insegnante di lettere al liceo, Augusto Monti. Quest'ultimo faceva parte di un circolo di intellettuali antifascisti. Il poeta, a sua volta, consegue la laurea in lettere, coltivando in particolare un interesse verso autori della letteratura statunitense, tra cui Whitman, su cui basa la propria tesi, oppure Melville, di cui traduce Moby Dick nel 1932, la prima di tante. Nel 1934 entra a far parte della casa editrice Einaudi, ma come conseguenza della sua vicinanza al movimento antifascista Giustizia e Libertà è perquisito e nel 1935 persino confinato a Brancaleone per 3 anni. In Calabria scriveva nel suo diario e insegnava latino e letteratura italiana per vivere. Prima che il Gallo canti è un racconto autobiografico di questo confino in Calabria. Invece, nel 1952, il suo diario personale dà forma all'opera Il mestiere di vita, in cui emergono per la prima volta i suoi toni introspettivi e le sue riflessioni esistenziali. Il 1936, anno di ritorno a Torino, porta sofferenze. La donna amata è adesso sposata e lavorare stanca, sua raccolta di poesie, rimane in ombra. Continua a tradurre e pubblicare. L'8 settembre del 1943, data che sancisce l'armistizio, Pavese è a Roma, ma non si unisce ai partigiani, rifugiandosi a Serralunga di Crea, nel Monteferrato. L'isolamento è affliggente e angoscioso, infatti Cesare Pavese trova pace nello studio del mito, della religione e del mondo classico. Nel dopoguerra Pavese riprende la sua attività editoriale all'Einaudi e si iscrive al Partito Comunista, iniziando a collaborare con il quotidiano L'Unità. Successivamente nel 1947 si schiera politicamente, con il romanzo Il Compagno. Il Compagno, però, è contestato ripetutamente, aumentando lo sconforto di Pavese. Ad aggravare il quadro, la rottura della relazione amorosa con l'attrice americana Constance Dowling, alla quale dedica la raccolta poetica Verrà la morte avrà i tuoi occhi. In questi anni il successo aumenta con I racconti di Feria d'agosto, I dialoghi con Leucò, Prima che il gallo canti, che congiunge il carcere e la casa in collina, La luna e i falò. Nel 1950 gli viene conferito il premio Strega, ma il 27 agosto si suicida in un albergo torinese, assumendo troppi sonniferi. I temi approfonditi e sviscerati da Pavese sono l'infanzia, vista come periodo ingenuo, spensierato e un contatto con le origini e la natura. La luna e i falò è proprio un romanzo in cui emerge questo suo ritorno alla sua terra e le sensazioni suscitate. Poi la solitudine, come condizione ineluttabile, deriva dall'incapacità degli uomini di capirsi tra loro e di comprendersi. Un altro tema è il discorrere del tempo, che sottolinea il cambiamento persino di un essere umano fra ciò che era e ciò che è. Poi il mito che permette di analizzare il destino e il desiderio, Dialoghi con Leucò ne è l'esempio per eccellenza. Infine, l'amore come attesa, speranza, luce. Questi si infrangono contro l'onda della disillusione. Il concetto è espresso soprattutto in Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. La mia opinione e la mia analisi è ricaduta proprio su queste due opere di Pavese, che esprimono pienamente l'animo dello scrittore e i suoi sentimenti più reconditi. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi è stata composta nel 1950, pochi anni prima della sua tremenda morte, e pubblicata postuma nel 1951. Pavese è distrutto dalla relazione con l'attrice americana Constance Dowling e vede nella scrittura l'unico sbocco del suo impetuoso fiume interiore. I suoi componimenti sono all'incirca 10, di lunghezza variabile, 2 in lingua americana e la scrittura non presenta eccessivi orpelli. Come suggerisce il titolo, i due temi cardine sono la dicotomia amore-morte e la costante attesa suscitata dalla solitudine. La raccolta è vicina ad un'altra raccolta di Pavese, La terra e la morte, dedicata a Bianca Garufi, sua prima delusione amorosa. Eppure, proprio la principale differenza con quest'ultima sottolinea la differenza di Verrà la morte avrà i tuoi occhi. Difatti, la prima mantiene i toni mitologici e bucolici, una costante di Pavese. Invece la seconda è propriamente una lirica d'amore, un esemplare di nudità emotiva e struggimento. Leggere la raccolta Verrà la morte avrà i tuoi occhi mi ha trasportato in un universo costellato di passioni, emozioni recondite e sentimenti profondissimi. È stato come immergersi in un mare d'onde convulse, ma paradossalmente confortevoli, calde e familiari. Pavese è riuscito a dare una forma solenne a un'afflizione abissale, a concretizzare mediante parole un'emozione piuttosto astratta. Ogni pausa invece racconta un sospiro rassegnato. La composizione in 10 componimenti non coincide con superficialità. Ogni singola parola, secondo me, deve essere analizzata attentamente, proprio per cogliere ogni singola sfumatura, che sia letterale o figurale. Inoltre Pavese intende trasportare il lettore nel suo tormento, ma al contempo gli lascia la possibilità di plasmare quei versi sul proprio vissuto. Le poesie, infatti, esprimono innamoramento sconfinato, sofferenza, attesa e morte interiore. Pavese, per di più, non rappresenta una donna sacra o un sentimento spirituale. La donna ha carne e sangue, e la sofferenza provocata in lui si avverte in un vuoto interiore e in palpitazioni fin troppo umane. Ho deciso, in questo podcast, di proporre un'analisi personale delle poesie. Le due poesie che precedono il celeberrimo componimento Verrà la morte avrà i tuoi occhi sono l'amore puro, incommensurabile. La prima poesia è intitolata In the morning you always came back. Ci sono delle costanti che si ripetono mediante varie immagini: la rinascita, la speranza, la libertà, il sollievo e la luce. Constance è l'alba. Che cos'è l'alba se non rinascita, se non nuove possibilità, se non speranza verso un nuovo ciclo? E il vento dell'alba? Per me è libertà, leggerezza e sollievo, che sono sottolineati persino dai versi conclusivi: cigoglio della brezza, tepore, respiro. La scelta di usare il termine respiro e non sospiro non è casuale. Il sospiro è rassegnazione, disillusione, ma anche stanchezza. Il respiro è aprire i polmoni a nuovo ossigeno, a più vita, a libertà, ed è soprattutto forza di poterlo compiere. Ci sono dei versi riferiti alla donna, quali sei la vita, il risveglio, come per sottolineare sei rinascita, sei liberazione, continuando a ribadire il tema di speranza nuova. Un altro spettacolare verso che lo sottolinea è finita la notte, sei la luce e il mattino. Notte e oscurità, incertezza e abbandono. Il mattino è risveglio, consapevolezza e forza nuova. Nella poesia seguente, come nella precedente, ritorna il concetto di rinascita, di nutrimento e di salute. Pavese scrive: terra e piante, cielo di marzo, luce vibrano e ti somigliano. La terra è quindi sostentamento, la pianta è ossigeno e la donna è tutto questo. Lo stesso tema viene ripreso nei versi non immediatamente successivi. Acqua chiara, virgulto primaverile, terra germogliante, silenzio. All'inizio della poesia, invece, ci sono dei termini che sottolineano come la donna non sia la stessa dello stil novo. Non vi è una divinizzazione, lei esiste e respira. E il concetto incantevole è proprio che Pavese non sta adorando un angelo, ma un essere umano. Questo la eleva, se possibile, ancora di più. Pavese scrive: hai un sangue, un respiro, sei fatta di carne, di capelli, di sguardi anche tu. Poi, di seguito, il tuo riso e il tuo passo come acque che sussultano, la tua ruga fra gli occhi come nube raccolte, il tuo tenero corpo una zolla nel sole. Le acque che sussultano e la ruga che ricorda delle nubi possono essere ricondotte ad un sentimento caotico, uno tsunami interiore provato da Pavese soltanto nell'osservare la donna. Il concetto della donna, come concreto essere vivente, è ripreso dai versi che ne sottolineano la sua conoscenza del mondo, delle stagioni, dei sapori, e quindi che la riconducono ai 5 sensi che generalmente un essere divino non possiede. Un'altra espressione degna di nota con cui Pavese fa riferimento alla donna è dolce frutto, sempre ricordando il suo carattere di nutrimento dell'anima. E in conclusione alla poesia è presentata come tenace e resistente, diventa radice forte ed è terra che aspetta, quindi anche crescita e persistenza. Verrà la morte avrà i tuoi occhi. A partire dalla quarta poesia, Pavese soffre, è lacerato interiormente. Quel sentimento che lui provava è stato squarciato dalla donna stessa che lui adorava. Pavese è morto, respira ancora, osserva ancora le stagioni di cui la donna era a conoscenza e i sapori che anche lei aveva provato, ma allo stesso tempo lui non esiste più. La morte, infatti, è stata l'abbandono della donna e, paradossalmente, al suo posto c'è un arrivo con il suo stesso sguardo, la morte. I versi immediatamente successivi descrivono una costante che non svanirà nel tempo, che toglierà il sonno e soprattutto le ore di riposo che sono fondamentali per l'essere umano. Paradossalmente, la donna prima contribuiva al suo nutrimento interiore, essendo frutto, adesso invece toglie persino un nutrimento che non procurava lei. Gli occhi che nella prima poesia erano descritti come luce grigia dell'alba, adesso sono vani, sono silenzio e soprattutto sono grido taciuto. In particolare, il grido taciuto è una sofferenza immane, perché urlare il proprio dolore e ottenere non soltanto disattenzione, ma persino zittito. Se la vita è il nulla, nella prima poesia scrisse «Se la vita è il risveglio». Adesso la parola di risveglio è sostituita da un buco nero che aspira la forza vitale e che risucchia il poeta, lasciandolo deceduto nel nulla. Non ci sono sentimenti, non c'è neppure rabbia e dolore, soltanto apatia. L'apatia è l'annullamento totale dei sentimenti, che paradossalmente potrebbe essere il sentimento più affliggente, proprio perché non si è capaci di provarne alcuno. Pavese procede. Per tutti la morte ha uno sguardo. È questa una frase che potrebbe apparire relegata alla situazione, ma se ognuno l'associasse alla propria storia, è più vera che mai, con una sfaccettatura di 8 miliardi di significati. You, Wind of March. La poesia è uno specchio in cui chi si riflette vede una persona morta, che però lo schernisce, ricordandogli ogni particolare che lui adorava. Pavese scrive: «Se venuta di marzo sulla terra nuda». Quindi sottolinea che era novità. Eppure quel brivido perdura attualmente, cioè quel brivido d'adrenalina iniziale adesso si è tramutato in altro, un po' come il battito all'inizio, il quale era una pulsazione d'amore e adesso è di panico. Procede descrivendola come sangue di primavera. Il sangue è color cremisi e potrebbe essere ricondotto alle rose rosse, come amore, ma anche come sangue del poeta, che se interno al corpo è capace di consentirgli il respiro, proprio perché porta ossigeno, ma se fuori, quindi nel momento dell'abbandono, allora sarebbe morte per dissanguamento. Procede a concentrarsi su un particolare che nello stil novo era fondamentale, l'incedere della donna. Infatti, il suo passo ha violato la terra, della stessa leggerezza del vento che lo risvegliava è stata capace di riaprire una ferita cicatrizzata, proprio perché Pavese aveva già sofferto in precedenza. Continua poi a creare un parallelismo tra il presente e il passato. Scrive: «Era fredda la terra sotto povero cielo, era immobile, chiusa in un torbido sogno. Come chi più non soffre, anche il gelo era dolce. Dentro il cuore profondo tra la vita e la morte, la speranza taceva». Quindi la donna era stata capace di portare calore in una terra fredda. Un gelo caloroso, accogliente, si era districato in un sogno di una persona sconfitta e gli aveva permesso di ricominciare a vivere e non più sopravvivere. Il presente, dopo di lei, Pavese racconta: «Hai riaperto il dolore, sei la vita e la morte, sopra la terra nuda, sei passata leggera come rondine o nube, e il torrente del cuore si è ridestato e irrompe e si specchia nel cielo e rispecchia le cose». Quindi, in quel cielo che in precedenza era soltanto povero, adesso c'è una tempesta. Dopo di lei c'è distruzione e nel cuore soffrono e si contorcono nell'attesa, perché spera che sia capace di rimettere a posto il caos, come ne era stata capace in precedenza. Dialoghi con Leucò. Pavese vuole indagare il destino e le origini del genere umano e la sua relazione con la divinità. Scrisse quindi nel 1947 Dialoghi con Leucò. Il mezzo che sceglie è la mitologia, in particolare la mitologia greca. Le figure sono quindi dei, eroi, titani, ninfe e mortali. Figure apparentemente imbattibili, in realtà stanche, soprattutto gli dei, quasi invidiosi degli esseri umani, perché a differenza loro gli esseri umani sono mortali. L'opera è articolata in 27 dialoghi autonomi tra loro e anche piuttosto brevi, in cui due voci si scambiano opinioni e si interrogano a vicenda, lasciando che il lettore si interroghi a sua volta. Quindi non ci sono azioni né descrizioni, soltanto profonde riflessioni filosofiche. L'autore indaga una moltitudine di campi dell'esistenza. Il destino, impossibile da sradicare, che non è punizione, bensì sempre esistito. a cui segue il discorrere del tempo che permette agli uomini di cambiare e li rende invidiabili agli occhi degli dèi. I personaggi non sono gioiosi, piuttosto soli. Nonostante stiano interloquendo con un'altra figura, non c'è salvezza e soluzione, soltanto indagine interiore e tentativo di darsi delle risposte. Pavese sceglie Leucò perché è una dea legata al mare, l'elemento che all'orizzonte separa la terra dal cielo, e infatti i dialoghi sono proprio posti al confine tra l'umano e il divino. L'autore inoltre si immerge nella scrittura di quest'opera, immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, in quella fase in cui non riesce a schierarsi con i partigiani e si sente angosciato. Allora cerca un rifugio sia fisico che interiore e lo ritrova nel porsi domande, isolandosi anche dal punto di vista storico per ritrovarsi nel mondo classico. Ritengo che ogni essere umano, a partire da quando oltrepassa la soglia di una maturità intensa, intesa come acquisizione di giudizio critico, debba immergersi nelle pagine di Pavese. Non consiglierei la lettura come una necessità di salvezza, perché Cesare Pavese non propone vie di scampo dal destino e quindi anche dalla sofferenza, però permette di indagarsi interiormente e quindi di dare un nome a sentimenti che spesso proviamo e che ci fanno sentire diversi e sconfitti. Le domande che Cesare Pavese implicitamente ci pone sono tantissime, seppur implicite. Dialoghi con Leucò, inoltre, è quello spazio a cui ci dovremmo dedicare almeno un po' ogni giorno per riflettere su noi stessi e non diventare degli automi dediti a svegliarsi e lavorare continuamente. Piuttosto ci apre alla riflessione, ci permette di comprendere quanto sia necessario interrogarsi, anche non giungendo a nessuna conclusione o risoluzione del problema. Per quanto riguarda la scelta del mito di Pavese, la ritengo magistrale. Apprezzo sconfinatamente la mitologia greca perché mi incuriosisce parecchio come gli uomini siano stati capaci tantissimi anni fa di rappresentare vizi e virtù dell'uomo mediante delle figure che sembrano sconfinate, ma che poi hanno sempre qualcosa che le rende corruttibili, proprio perché sono in qualche modo dotati di vizi. Apparentemente l'uso della mitologia potrebbe farla sembrare una narrazione simile all'Odissea, oppure come qualcosa che non ci sfiora perché è troppo distante. In realtà ogni tema si ripete costantemente, l'infanzia, l'amore, la morte e il destino, in cui Pavese, in un'epoca di sangue e armi, visse all'ordine del giorno. Un'epoca capace di dimenticarsi dell'essenza dell'animo umano. Riesce quindi Pavese a porre luce sulla sua fragilità e sulla sua precarietà. Ho scelto di proporre alcuni passi dei dialoghi che sono rimasti impressi nel mio cuore. Il dialogo tra Eros e Thanatos è intitolato Il fiore. Nella mitologia greca, le figure di Eros e Thanatos indicano una dicotomia tra due figure contrapposte ma indissolubili tra loro. Il primo rappresenta la pulsione dell'amore sessuale e sentimentale, forza capace di creare l'energia vitale che consente alla specie di progredire attraverso la freccia letale dell'invaghimento. La seconda pulsione, invece, raffigura la morte ed è associato all'esegesi, alla distruzione. Infatti, se Eros unisce, Thanatos dissolve e separa. La frase che mi ha colpito a primo acchito è stata pronunciata da Eros. Chi può dirlo? Dai tempi del caos non si è visto che sangue. Sangue d'uomini, di mostri, di dèi. Si comincia e si muore nel sangue. Tu come credi d'esser nato? Una riflessione che mira dritta al punto. La guerra. Pavese è obiettivo. Dall'inizio dei tempi il mondo non fa che progredire mediante sangue, battaglie feroci, armi, fame e distruzione. Inesistente è stato infatti il periodo in cui non ci furono lotte. Questa riflessione di Pavese potrebbe essere ricondotta ad una concezione filosofica simile a quella di Schopenhauer. Credeva infatti che la storia è il ripetersi di un teatro di sopraffazione e di illogicità, che non è altro che la realtà. Passati quasi 100 anni, questa frase pare una sentenza, è più vera che mai. Pavese non propone una risoluzione al problema, è soltanto una pura e dolorosa constatazione, è un pessimismo storico che procederà in eterno. Con un semplice titolo e due, Pavese sancisce lo scambio di battute tra Achille e Patroclo. Patroclo è l'amante inseparabile di Achille, crescono insieme e combattono fianco a fianco. Quando Achille, oltraggiato da Agamennone, si ritira dalla guerra, Patroclo chiede di indossare la sua armatura per spaventare i troiani e difendere i greci. Riesce nell'impresa, ma viene ucciso da Ettore. La morte di Patroclo distrugge Achille. Il dolore supera ogni rancore. Torna in battaglia, diventa inarrestabile e uccide Ettore. In segno di fedeltà assoluta, Achille fa bruciare insieme le loro ossa sul rogo funebre, desiderando condividere anche la morte. Nel colloquio viene affrontato il tema dell'ingenuità dell'infanzia, dell'incanto, della spensieratezza ed è un tema a me molto caro, che però spesso tendo a ricondurre alla nostalgia, soprattutto perché si sa che quei momenti non si rivivranno mai più e che probabilmente quei determinati istanti di gioia sono irripetibili. Quando si è bambini non esiste guerra se non per gioco e con scopo la pace. Non esiste l'invidia, non esiste nemmeno l'angoscia, soltanto paure che se accuditi svaniscono presto. Achille esclama: «Non si può non pensarci. Da ragazzi si è come immortali, si guarda e si ride. Non si sa quello che costa, non si sa la fatica e il rimpianto. Si combatte per gioco e ci si butta a terra morti. Poi si ride e si torna a giocare». Riassumendo quindi l'essenza di una fase precoce della vita in poche ma profondissime righe. La rupe. Eracle, figlio di Zeus e della mortale Alcmena, nasce già sotto un conflitto. Era, gelosa, lo perseguita per tutta la vita. Reso folle da un suo incantesimo, Eracle uccide la moglie e i figli. Per espiare la colpa, accetta di servire il re Euristeo, che gli impone le 12 fatiche. Le imprese sono prova di forza e intelligenza, uccide il leone di Nemea, sconfigge l'idra di Lerna, cattura Cerbero e ruba Pomidoro. La sua vita resta però segnata dal dolore. Ingannato, indossa una tunica avvelenata che lo uccide da atroci sofferenze. Zeus allora lo rende immortale. Prometeo è un titano che osa rubare il fuoco agli dei e lo dona agli uomini, offrendo loro conoscenza, tecnica e progresso. Zeus reagisce con una punizione esemplare. Prometeo viene incatenato a una roccia del Caucaso. Ogni giorno un'aquila gli divora il fegato, che ricresce durante la notte, in un supplizio eterno. Solo molto tempo dopo verrà liberato da Eracle. Attraverso la voce di Prometeo, Pavese espleta la sua concezione di uomo. Infatti Prometeo sentenzia: «Pietà e paura sono l'uomo, non c'è altro». La pietà è suscitata dalla compassione verso il dolore altrui e ne consegue il tentativo di provare a risolverlo. Potrebbe derivare da profondissima empatia, ma in fondo ogni uomo ha una storia e prova a evitarla al prossimo, prova a guarirlo per guarirsi. La paura, invece, è quella pura irrazionalità che fa scalpitare il cuore e dimezza il respiro, è quella necessità di vicinanza di fronte a qualcosa che obiettivamente non si riesce ad affrontare. Tutti abbiamo paura da quando nasciamo, bambini, ragazze, uomini e anziani, e certamente Pavese non si sbagliava quando disse che tutti gli esseri umani sono accomunati dalle due, seppur io aggiungerei bisogno primario di conforto e sicurezza in ogni stadio della vita. Leggere Pavese, ribadisco, è stata un'esperienza che ripeterei sicuramente. Ogni pagina, ogni parola racconta una storia vissuta, un dolore profondo, un bisogno di rassicurazione e una rassicurazione per il lettore stesso. È stato come avvertire il freddo della tempesta quando si è sotto un ombrello. Ci sono state frasi che rimarranno per sempre impresse nei ricordi e riflessioni che grazie al celebre poeta si sono districate nella mia mente, portandomi ad aprire completamente gli occhi sul mondo circostante. Ho intravisto una nudità emotiva espletata maggiormente nei versi in poesia e celata attraverso i miti nella prosa. In entrambi i casi ho colto la sua respirazione profonda.